Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti al quarto numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Sono passati solo pochi anni da quando uno sparuto gruppo di curiosi scopriva Twitter, senza sapere bene ancora che cosa farne. Oggi sembra passata una vita. Twitter ha trovato un lavoro, anzi molti lavori. Insomma, è diventato qualcosa e non smette di reinventarsi. Ma che cosa è diventato? E cosa diventerà in futuro? Twitter è uno strumento che può essere utilizzato soprattutto in tre modalità diverse e contemporaneamente anche, che sono l'aggiornamento via web tramite la pagina all'indirizzo twitter.com e seguito dal proprio nome utente, via Instant Messenger, in cui viene praticamente creato un nuovo utente al quale si viene i messaggi dal quale si ricevono gli aggiornamenti, e via SMS con un cellulare. Twitter ha delle particolarità che secondo me sono molto interessanti proprio per la semplicità che ha. Cioè, i tre punti chiave di Twitter sono la semplicità, la possibilità di avere una multipiattaforma, cioè il fatto che si basi su una multipiattaforma, cioè può essere gestito da diverse tipologie di inserimento, e la sincronicità, il fatto che quello che io faccio avviene aggiornato istantaneamente. Quindi per certi versi io potrei anche creare una sorta di mini blog anche tramite quello che scrivo su Twitter. Allora, abbiamo ascoltato la voce di Christian Conti, che fu uno dei primi bar camper della storia di questo paese. Il brano audio che abbiamo sentito poco fa risale addirittura al gennaio 2007. Di fatto non è tantissimo tempo, però sembra veramente passata una vita. Allora provavamo questi nuovi servizi, tra cui Twitter, di cui avete sentito Christian Conti parlare, ma non sapevamo bene dove sarebbero andati a parare. Di questo parliamo oggi, lo facciamo intanto con il professor Stefano Epifani. Buongiorno professore. Salve a tutti. Che insegna, se non sbaglio, qui devo sempre stare molto attento, al corso di laurea specialistica in comunicazione d'impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, corretto? Corretto, se non fosse che la Facoltà di Scienze della Comunicazione non esiste più, è stata assorbita e è diventata qualche altra cosa che non ricordo bene come si chiama, però la sostanza è quella. Allora ti invito a correggere questa pagina del tuo blog, che è blog.stefanopifani.it, blog seguitissimo, è un vero e proprio opinion leader su queste tematiche, lo abbiamo invitato. Siamo anche in compagnia, come si dice in questi casi, un gradito ritorno di Luca Alagna. Ciao Antonio, buongiorno, ciao Stefano. Luca Alagna, che non si occupa solo di user interaction design, come ho detto erroneamente la volta scorsa, ma direi di strategie di comunicazione digitale a più ampio raggio, corretto? E che più ne ha più ne metta, diciamo. Ecco. Allora, avete sentito, intanto che effetto vi fa risentire l'atmosfera un po' di scoperta che oggi non c'è più, forse è anche un'atmosfera un po' ingenua di quel Roam Camp del gennaio 2007. Beh, insomma, fa effetto, perché sembra passato tantissimo tempo, sembrano passati 40 anni, in realtà pochissimi anni, e quello che all'epoca non si sapeva che cosa fosse si è definito abbastanza bene, ma anche recentemente. Ecco, io ricordo che gennaio 2007 si cominciarono a tirare le fila del primo uso di Twitter che tutti noi abbiamo provato a usare. Ricordo il momento di massimo, diciamo così, divertimento fu il Natale del 2006, no? Si era già creato un primo nucleo, c'eravamo noi, poi c'era, ricordo, Catepol, Stefigno, vari personaggi, insomma, che si facevano gli auguri, e di solito queste cose si fanno via SMS, invece si era creato tutto un gruppo di persone che dicevano: sto mettendo le palle all'albero di Natale, sto facendo il presepe, e così via. Cosa ricordate di quei giorni, Stefano? Beh, che ogni tanto quelle palle si rompevano, ma a parte... Metaforicamente o in realtà? Ma no, quando uno mette le palle al presepe succede che cadano e si rompono. Ma ricordo che era un periodo di sperimentazioni, come sempre del resto, anche perché io penso che in questo settore, in questo contesto, la sperimentazione sia continua. Quello che si dice la perpetual beta è un dato di fatto. Ok, tu Luca, cosa ricordi? Ma no, mi ricordo comunque ricordi fumosi, perché ormai negli ultimi tempi sono accadute così tante cose su Twitter che realmente nella mia memoria è difficile. Ricordo che no, quello che chiedeva Twitter nel forum dove si metteva il poster: cosa stai facendo? Sì, c'era questa cosa che cioè sembrava invitarti a quello che oggi un po' dispregiativamente chiamiamo Lego casting. Che cos'è Lego casting, Luca? Che cos'è Lego casting? Guarda, cioè è una modalità molto simpatica. In diversi social network bisogna dire che comunque raccoglie molti fan. È semplicemente, come si può dire, portare all'evidenza di tutti i fatti propri, la propria personalità, il proprio modo di essere. Ecco. Ma quello che succede veramente nella propria vita o ciò che noi vogliamo che si sappia in giro per il pianeta, Stefano? Ma è evidente che l'idea è che si broadcasti quello che si vuole che si sappia. È altrettanto evidente che spesso il limite tra quello che si vuole che si sappia e ciò che è effettivamente è molto labile. Lo stiamo vedendo in questi giorni con Facebook, ad esempio, che peraltro sull'ego casting ancora oggi vive. Ecco, c'è stato tutto un momento in cui si sono sollevati degli allarmi, no? Sull'uso di questi strumenti. Se tu sei in qualche modo incentivato, spinto a dare una rappresentazione di te stesso in tempo reale, che sai che produce degli effetti sulla tua reputazione, sei in qualche modo spinto anche a mentire o ad omettere. Volevo chiedere un parere a tutti e due. Secondo voi è un dovere dire la verità su Twitter? Dipende. Dipende, no, perché nella stessa misura in cui lo è nella vita normale? Le misure possono sembrare simili. In realtà, se tu stai creando un personaggio, se stai, diciamo, ti stai ponendo in un certo modo, potrebbe essere addirittura, non so, ci sono diversi casi di narrativa addirittura su Twitter, ci sono casi di teatro, chiamiamolo così, su Twitter. E quindi, però, e naturalmente questi sono dei casi evidenti, nella proposizione di se stessi, quindi diciamo in quello che si può chiamare personal branding, cioè, naturalmente è assolutamente controproducente raccontare frescacce, si potrebbe dire. Ma sempre a te lo chiedo perché sei stato uno dei protagonisti di questa trasformazione. Nel frattempo Twitter, dicevo, nell'introduzione ha trovato un mestiere, un lavoro, anzi più lavori. Cioè, nel frattempo, prima ancora che la piattaforma in qualche modo si adeguasse tecnologicamente alle cose che ci si potevano fare, e mentre fiorivano altri servizi che chiamiamo i nipotini di Twitter, diciamo così, le persone avevano cominciato a usare Twitter per fare cose un po' più interessanti, come quella che hai fatto tu. Adesso, vabbè, ti chiedo di descrivermela, però devo fare una piccola introduzione. Certe volte si dice l'occasione fa l'uomo ladro. Sì. accadde, ricorderete tutti, che a un certo punto in Iran, zona dalla quale insomma era molto difficile avere informazioni verificate, svolsero delle elezioni politiche, la cui regolarità fu messa subito in discussione. Era difficile capire veramente quello che stava accadendo a Teheran. Le agenzie di informazione si comportavano come è sempre successo in questi paesi difficili, no? Con il corrispondente blindato all'Hilton che ascolta il BBC World Service per sapere quello che succede. E invece che succede? Che il Luca Lagna, che è qui in studio con noi, decide di raggruppare e filtrare tutte le informazioni che arrivano dall'Iran tramite Twitter. Che cosa hai combinato, Luca? Sì, no, non l'ho fatto poi soltanto io. In realtà mi sono messo un bel punto a dire: ok, raccolgo queste informazioni che stanno arrivando, ma per motivi, diciamo, di ricerca, voglio capire, no, da chi vengono, come vengono. E invece in pochissimo tempo mi sono ritrovato sotto le mani una sorta di sistema informativo che forniva in tempo reale delle informazioni che le TV, i grandi broadcaster e anche le agenzie di stampa non stavano dando. Ecco, cioè siccome quel lavoro che stai facendo tu, cioè raggruppando tutte queste informazioni, era diventato una concorrenza alle agenzie di stampa vere e proprie, è diventato un caso nazionale, se ne è parlato, ma come facevi tu a filtrare l'informazione? Cioè, il ruolo di mediatore, di verificatore del giornalista viene disintermediato, e, però, ok, tu come facevi ad avere la certezza che le cose che venivano pubblicate su Twitter fossero vere? Dall'Iran, che non fossero, per esempio, manipolazioni sia dell'opposizione sia del governo. Questo è un grande tema dell'informazione online. Il fatto è che la certezza, quella che definisci certezza, in un caso come questo, in questo caso, cambia completamente paradigma. Cioè, noi oggi siamo abituati a una piramide dell'informazione nella quale arriva ai giornalisti l'agenzia di stampa. L'agenzia di stampa è sicuro che sia certificata da qualcuno che è. Molte volte invece succede che questa agenzia di stampa in realtà ha preso una cantonata incredibile, tutti i giornali sbagliano di conseguenza. Su i social media, in questo caso su Twitter, il controllo dell'informazione avviene in un altro modo, avviene attraverso la rete stessa, quindi le informazioni che in quel momento per esempio mi arrivavano, io le verificavo attraverso l'autorevolezza, chiamiamola così, delle persone che la fornivano. Questa autorevolezza era verificata anche dal fatto che queste persone avessero già dato in passato delle notizie giuste o sbagliate. O esempio classico, se sto dicendo che un palazzo sta crollando e dopo 5 minuti arriva la foto di questo palazzo che effettivamente è crollato, questa persona è affidabile. Certo. È molto semplice. Se invece qualcuno spara una stupidaggine e questa cosa non accade, anche se quella notizia in quei 5 minuti inizia ad avere un suo picco, in realtà poi quando si capisce che non è più una notizia valida, questa persona perde naturalmente autorevolezza e in futuro non sarà calcolata. Diciamo, adesso proprio sì, per fare un estremo, diamo le stelline, diciamo, alle persone come fa sì. Brunetta con... sì, anche. Va bene, facciamo un'altra pausa, proseguiamo il discorso dopo. Dopo, come dicevamo, una prima fase in cui l'utilizzo era indiscriminato e la fiera, soprattutto poi è capitato il periodo delle vacanze di Natale, e questo secondo me è sintomatico, perché comunque la gente ha più tempo, pian piano sono emersi dall'utilizzo che ne fanno gli utenti, e questa è la cosa un po', diciamo, evidente e sintomatica allo stesso tempo, degli utilizzi, appunto, uno decide di condividere un link, una foto, quindi dal banale... cosa faccio, dove sono, che può essere utile magari per dire sono nel tal posto e l'amico vede la, diciamo, la notifica e ti va a trovare, che è una cosa molto, insomma, limitata, sono emersi degli ulteriori utilizzi tipo la condivisione di un link, un video, una foto, diciamo un pensiero, appunto modello, diciamo, appunto da block notice o post-it che dir si voglia, che può essere poi viene ripreso magari da altri o ripreso da noi, quindi come una cosa che noi fissiamo lì perché ci è passata per la mente e non la vogliamo perdere. O anche, appunto, da un pensiero capita che gli altri dello stesso network comincino a rispondere a una cosa che può essere da quella banale a quella tecnica, e così via, creando appunto il meme, la catena, insomma, termine che dir si voglia. Cominciano a emergere anche delle forme, diciamo, di, insomma, di divertimento, tipo il Twitter di Darth Vader o il Twitter di Satan, quindi persone che hanno deciso di creare, diciamo, un proprio account dove mettere degli aggiornamenti. C'è anche quello di Condoleezza Rice, diciamo, abbastanza, diciamo, fuori probabilmente. Allora, abbiamo sentito un altro inserto dal Rome Camp del gennaio 2007 con la voce di Antonella Napolitano, che era una delle prime utilizzatrici di Twitter. Nel frattempo ci ha raggiunto al telefono Vincenzo Cosenza. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, tu che sei il responsabile della sede romana, dell'ufficio romano di Digital PR, che è un'agenzia del gruppo Hill & Knowlton, specializzata naturalmente in comunicazione digitale, e ormai abbastanza nota per la capacità di fotografare un po' il momento dei social network, cominciare da Facebook, per proseguire poi anche con Twitter, nel nostro paese, in Italia. Non sono molti i dati credibili, limitati alla realtà italiana, e da poco tempo è uscito uno studio, diciamo, statistico interessante sugli utenti di Twitter in Italia adesso. Intanto quanti sono, Vincenzo? Gli utenti registrati italiani dovrebbero essere intorno a 1.300.000, e questo dato è in realtà un dato che proviene direttamente da Twitter, che ci è stato svelato un po' di giorni fa grazie a un dirigente di Telecom Italia, che ha comunque pubblicato questi numeri, e quindi per fortuna abbiamo quantomeno un universo di riferimento. La cosa interessante è che di questi 1.300.000 soltanto 350.000 sarebbero gli utenti che si loggano in Twitter ogni mese, quindi quelli attivi, quindi soltanto il 27% di quelli iscritti sono effettivamente attivi sulla piattaforma. Ecco, oggi non vogliamo tediare ancora una volta i nostri ascoltatori con le strategie aziendali sui social network, però sostanzialmente questo significa che qualsiasi campagna, qualsiasi iniziativa su Twitter deve avere come riferimento gli utenti attivi, corretto Vincenzo? Sì, esatto. Ecco, io vorrei chiedere intanto a Stefano che in questa fase molto embrionale, secondo te, che utilità hanno queste indagini quantitative nazionali sui social network? Ma domanda da $1 milione, davvero da $1 milione, e peraltro forse il più indicato è proprio Vincenzo in effetti a rispondere. Questo non per passargli la palla, perché Vincenzo da tempo si occupa di elaborare statistiche molto interessanti e molto utili, in particolare su Facebook e altri social network. Che ruolo hanno le statistiche? I numeri buttati là, come spesso succede, 1 milione, 300.000, 500.000, 10 milioni, servono davvero a poco, secondo me, anche perché bisognerebbe capire cosa si intende per utente. Ecco, ma secondo te che ci fanno questi italiani attivi in questo momento? A cosa, cioè, che uso ne fanno? Che tipo di... cioè, sono rimasti, diciamo, gli ego caster della prima ora, o sono persone che lo usano per informarsi, oppure usano gli hashtag, cioè sono utenti evoluti, oppure sono utenti... Esistono diversi usi di Twitter, e ovviamente sono relativi a diverse fasce di popolazione. Ci sono persone che usano Twitter per fare ego casting, ci sono persone che usano Twitter per fare broadcasting di notizie. Twitter non è oggi uno strumento particolarmente adatto alle conversazioni, come invece è stato usato, si è tentato di usarlo in passato. Esistono strumenti molto più adatti. Per contro, la vera caratteristica di Twitter, che è emersa prima negli Stati Uniti di quanto non sia emersa in Italia, quindi quella di fare broadcasting di informazioni, oggi comincia a vedersi sempre più forte anche da parte degli utenti italiani. Vincenzo, abbiamo accennato poco fa al fatto che in qualche modo la piattaforma di Twitter si è adeguata all'uso che ne facevano gli utenti. Cioè, all'inizio gli utenti stessi si sono organizzati creando l'hashtag, che poi magari ci spiegherai bene che cos'è, perché sì, Non tutti gli ascoltatori lo sanno. E poi successivamente la piattaforma si è arricchita di sua iniziativa di nuove funzionalità. Ce le vuoi descrivere? Sì, tra le prime cose create dagli utenti, appunto, gli hashtag, come dicevi tu, non sono nient'altro che una convenzione praticamente di etichettare l'argomento del quale si parla con un cancelletto e nome dell'argomento, praticamente si tratta di questo, oppure anche la convenzione retweet, cioè il rilanciare in rete un messaggio di un altro utente con la convenzione RT, è stata fondamentalmente un'invenzione degli utenti, poi è stata adottata ufficialmente dalla piattaforma. Ultimamente, nei giorni scorsi, diciamo che Twitter anche in Italia ha presentato delle novità molto rilevanti dal mio punto di vista, che sicuramente hanno un impatto sull'interfaccia e puntano anche a, soprattutto direi, a fare in modo che l'utente permanga più a lungo possibile proprio sul dominio di twitter.com, questo banalmente per una questione pubblicitaria, ecco, più l'utente consuma notizie, informazione all'interno di twitter.com, sia essa informazione testuale o foto, video, più Twitter sarà in grado chiaramente di vendere spazi pubblicitari, magari anche in maniera innovativa, e quindi di sopravvivere. Ecco, a me pare molto interessante l'accenno che ha fatto Vincenzo al fatto che lo strumento sia in una fase di co-sviluppo, e questo è importante perché questi strumenti, tutti questi strumenti, da Facebook a Twitter, passando per FriendFeed e via dicendo, non sono strumenti consolidati, non sono strumenti come quelli ai quali siamo abituati a pensare. Tutti questi strumenti di fatto nascono con una funzione, si sviluppano in funzione dell'uso che ne fanno gli utenti, e in funzione di questo modello di sviluppo prendono poi delle pieghe spesso inaspettate anche da parte del team di sviluppo. Esatto, se posso aggiungere una cosa proprio per avvalorare quanto appena detto Stefano, una curiosità, la stessa chat di Facebook nasce proprio perché gli ingegneri e i sociologi di Facebook stesso si rendono conto che gli utenti utilizzano il wall, cioè la bacheca, per scambi continui di piccole informazioni, di piccoli messaggi di testo, quasi proprio a creare una chat. Siccome a quel punto appunto la bacheca non era stata pensata in ottica di chat, decidono poi di implementare uno strumento più efficace. Ma visto che sei lì con noi al telefono, io ne approfitto per farti un'altra domanda. Quindi in sostanza, chi dice che Twitter non è uno strumento portato verso la conversazione, però è stato forzato in qualche modo dagli utenti per diventarlo, paga secondo te uno scotto rispetto alle piattaforme che fin dall'inizio hanno permesso questa funzionalità, come per esempio Facebook o come ancora di più FriendFeed? Beh, di fatto quello della conversazione, come dire, è un'esigenza che ormai gli utenti sentono, se parliamo la maggioranza degli utenti. Quindi sicuramente Facebook è riuscito meglio ad agevolare questa comunicazione tra gli utenti, chiamiamola conversazione, non sbaglieremmo dal mio punto di vista. Twitter nasce probabilmente con un altro scopo, e adesso rincorrere, non vuole secondo me a questo punto rincorrere più la strada di essere uno strumento di conversazione, tanto è vero che ha cambiato la propria mission, che è diventata Twitter uno strumento per condividere informazione, in cui in un certo senso si possono trovare informazioni filtrate dalla propria rete di amicizie. Quindi da un certo punto di vista, alcuni studi questo lo dimostrano, è un vero e proprio news medium, anche se tecnicamente, tecnologicamente è un social network, poi di fatto si atteggia più a un media tradizionale in cui si consumano notizie fondamentalmente. Va bene, allora facciamo un'altra pausa con un'altra testimonianza, diciamo, dal recente passato, ci sentiamo tra poco. Quindi insomma, da certe persone non mi sarei mai aspettato commenti di questo tipo, e quindi invito tutti, prima di criticare qualcosa, a sperimentarla, oltre a farsi un giudizio per sentito dire. L'altra cosa è c'è gente che pensa ancora che la tecnologia può essere buona o cattiva, cosa che mi sembra assurda, perché la tecnologia è l'uso che uno ne fa che la rende buona o cattiva. Su Twitter poi certe critiche che sono state fatte dimostrano proprio il non utilizzo, o comunque il non approfondimento, cosa che non è obbligatoria, però per come io sono abituato ad agire, prima di dare un giudizio cerco di informarmi e poi lo do. Molti giudizi che sono stati dati sono stati in qualche modo viziati da questo non approfondimento, perché Twitter si può accendere o spegnere quando uno vuole. Quindi io con on e off, sia dal cellulare che dal messenger, posso decidere, ammesso che voglio usare questi due strumenti, di seguirlo per un certo momento, in un altro momento no. Per cui il discorso della produttività probabilmente è un discorso mal posto, perché se io ho una cosa che non voglio essere interrotto e probabilmente spengo anche il cellulare, perché allora a questo punto anche il cellulare limita la produttività. Certe persone che lavorano con il cellulare, mi è capitato a me qualche anno fa, ricevi telefonate a tutte le ore in qualsiasi momento, devi spegnerlo se devi elaborare un documento. La stessa cosa avviene con Twitter, quindi non vedo perché Twitter limiti la produttività. Allora, qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abusa limita la produttività, per cui le critiche che sono state fatte a mio avviso impropriamente a Twitter sono estendibili al telefono cellulare, al telefono di linea fissa e feed. E questa invece era la voce di Luca Conti, con cui abbiamo già fatto conoscenza da un paio di puntate. Magari un giorno potremmo anche averlo in diretta qui, perché è sempre un osservatore acuto di quello che succede, e lo era anche allora, perché ha lanciato questo grido d'allarme contro i molti che si scatenano contro i nuovi servizi senza neanche averli provati, confermando la mia teoria, cioè quella della coda lunga delle opinioni, per cui quando tutti si entusiasmano di qualcosa si crea immediatamente, poco dopo, anzi, un'area di consenso per gli scettici. Con Twitter è successa la stessa cosa, vero Stefano? È successa la stessa cosa, e la prova credo sia il fatto che molti di quelli che gridavano scandalizzati, chiedendosi per quale motivo qualcuno dovrebbe dire cosa sta facendo in quel momento, oggi, nel momento in cui Twitter non serve più per dire cosa si sta facendo in quel momento, ci dicono cosa stanno facendo in quel momento su Facebook. Allora, abbiamo ancora in diretta Vincenzo, al quale chiedo un commento su questo uso parallelo, crescente, di Twitter che si fa in occasione di eventi nel mondo reale. Sostanzialmente, una volta esisteva il cosiddetto live blogging, no? Che è stato però rapidamente scalzato dal live twittering. Sì, per esempio, che so, c'è un convegno, un congresso in una città d'Italia dove magari non tutti possono essere, che so, a Milano tipicamente, si crea l'hashtag che identifica quell'evento, tutte le persone che sono in quel momento presenti all'evento in tempo reale raccontano quello che viene detto, lo commentano, e quindi è facilissimo per chiunque seguire quell'evento mettendo insieme tante voci e non la voce magari del singolo live blogger, no? E all'inizio anche questo era un uso indotto dagli utenti, e poi Twitter lo ha assecondato e le aziende soprattutto si sono attrezzate per incentivarlo. Una cosa che succede sempre, addirittura in aziende vengono riproiettati i tweet che la gente dal resto d'Italia o anche dal resto del mondo pubblica in quel momento, e addirittura questi tweet entrano nel dibattito reale, in tempo reale. Vincenzo, l'hai notata questa cosa? La state cavalcando voi lì in agenzia? Sì, l'ho notata, è ancora un'area, diciamo, sperimentale sicuramente. Io da professionista la consiglio, soprattutto quando serve a portare appunto nel dibattito dell'evento fisico l'opinione dell'utente che segue l'evento a distanza, e quello è molto importante. Da utente io la trovo molto utile soprattutto per quegli eventi che non hanno una copertura mediatica ampia, e in qualche modo è interessante perché dà sfogo, diciamo, a opinioni nuove, parallele, e anche se non crea vera e propria conversazione, comunque ti dà un sentore di quello che sta accadendo. E aggiungerei, Vincenzo, che da questo punto di vista è particolarmente interessante vedere che anche per quegli eventi che hanno invece una copertura mediatica ampia si sviluppino dei fili di conversazione paralleli. Vedi quello che succede nel momento in cui c'è una trasmissione televisiva e gli hashtag vengono utilizzati per commentare quella specifica trasmissione da parte di tutta quel popolo della rete che altrimenti non avrebbe avuto voce. Certo, ecco, invece assolutamente d'accordo. A Luca, che è esperto di user interaction, non solo di chi si trova davanti a uno schermo ma anche di chi magari va a un evento e vuole capire quanto questo evento è aperto rispetto al mondo esterno, chiedo un parere su queste meravigliose applicazioni che in tempo reale rielaborano, diciamo così, i tweet che vengono pubblicati e fanno degli splendidi grafici che vengono poi tipicamente proiettati con grande soddisfazione di chi organizza l'evento e grande anche confusione di chi sta nella platea certe volte, però è sicuramente molto evocativo vedere questo sciame di persone che sta fuori ed è come se fosse dentro l'aula, sala. Sai, sembra l'informazione che viene da Twitter, sembra caotica, sembra sempre caotica. Poi in realtà invece Probabilmente è questo, no, il flusso, il vero flusso informativo che ci vuole dare in un certo senso. Quindi no, queste applicazioni sono fantastiche. Tra l'altro lo studio dei dati, la rappresentazione dei dati anche grezzi che ci provengono dai social media è una cosa che si sta affermando molto ultimamente e che ci sta portando anche dei risultati e delle cose molto notevoli. Va bene, allora noi adesso facciamo un'altra pausa, salutiamo e ringraziamo Vincenzo per il suo contributo e sentiamo un altro inserto. Grazie a voi. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao. Anche gli altri. Per me Twitter non è una chat, nel senso che ha un paio di cose che non la rendono una chat. Una delle cose, quello che dicevi tu, è il fatto che hanno ogni singolo atomo di comunicazione che passa da Twitter ha un permalink. Cioè, per me questo è un dato, seppur minimo, assolutamente centrale per non far diventare Twitter una chat. Ci sono anche alcuni che hanno cominciato ad usare i singoli atomi di Twitter per linkare un pensiero. Per esempio penso a Bruma, anche ad altri, Riccardo Cambiassi. Cioè io le singole mie twitterate diventano un atomo di pensiero linkabile come un post. Quindi il fatto della permanenza del messaggio, così come ha cambiato la natura della comunicazione in rete dal pre-blog al blog, secondo me Twitter è la versione aumentata della chat, nel senso in cui la permanenza del contenuto fa sì che questo possa produrre delle conversazioni più significative, perché appunto io posso rintracciarle quando e come voglio. Una seconda cosa sull'uso di Twitter è che secondo me, come dicevi tu, da un primo utilizzo, che è un utilizzo un po' avido, nel senso che si mette tutto quanto, poi si ha via via, credo, un utilizzo un po' più consapevole. E io per esempio personalmente lo uso come un block notes pubblico, nel senso che mi prendo responsabilità delle stupidaggini che sottoscrivo su questa cosa, e invece in questo caso li metto su Twitter, e ciò significa che talvolta accade qualcuno ti dice sì, è una stupidaggine, meglio che la tenevi su block notes. Abbiamo sentito un'altra voce importante, quella di Antonio Sofi, sempre da questo ormai storico barcamp del gennaio 2007. Tra poco credo che a Roma ve ne sarà un altro, chiederò a Nicola Mattina, che avete conosciuto nell'ultima puntata. E nel frattempo io chiedo a Stefano Epifani, che è qui accanto a me, abbiamo parlato del passato di Twitter, del presente, secondo te dove va a parare? Che cosa diventerà Twitter? Dio, ci vorrebbe il mago Telma. È per questo che t'abbiamo chiamato. Oh Gesù. In realtà io penso che sia molto difficile prevedere il futuro di questo tipo di strumenti, e penso che il futuro di Twitter di fatto lo decideranno i suoi utenti. Luca. Beh sì, come non essere d'accordo col professore, diciamo che questa sua attitudine alle news probabilmente verrà accentuata. E sai, pensavo alla nuovissima Google TV, alle TV che integrano, no, Android e cose di questo tipo. Chissà che Twitter non possa avere un ruolo anche in questo senso. Ok, allora sentiamo le note della sigla di chiusura. Io ringrazio ancora una volta Luca Lagna, e ricordo anche il suo blog, dove è uscito, anzi gli voglio fare una domanda, è uscito proprio oggi se non sbaglio un tuo post che racconta che cos'è Twitter. Che cosa dici in questo post? Io non ho dimenticato di stamparlo, volevo farti delle domande su quello, ma... Oh sì, no, vabbè, in estrema sintesi è sempre difficile. Diciamo che no, parlo di Twitter proprio nella misura di news network invece di social network, quindi è anche un pochino un'occhiata al futuro di cui stavamo parlando adesso. Va bene, allora quindi per proseguire quel tema potete andare sul sito www.stilografico.com, il blog di Luca Lagna. Poi naturalmente ricordo ancora il blog di Stefano Epifani, che è blog.stefanoepifani.it, e last but not least il blog di Conversational, www.conversational.it. Ringrazio ancora gli ospiti in studio e vi do appuntamento alla settimana prossima.